Europa 24. E noi torniamo a fare il punto sul vertice europeo appunto in corso a Bruxelles. Lo facciamo in diretta con Alessandra Schepisi. Sì, trattative febbrili a Bruxelles per portare a casa l'accordo con la Turchia sulla gestione dei flussi migratori. 28 nella notte hanno trovato una posizione comune, hanno dato mandato al Presidente del Consiglio Tusk a trattare con il Premier turco Davutoglu. Da questa mattina infatti c'è stato un incontro tra i due insieme al Presidente della Commissione Juncker, al Premier olandese Rutte che ha la presidenza di turno. L'incontro si è concluso proprio in questi minuti, ora partirà invece la sessione allargata ai 28. Restano da risolvere questioni importanti, ma si va avanti, hanno fatto sapere fonti europee, dunque trattative difficile ma costruttiva, ma è sembrato ottimista anche il premier turco. Ha detto la Turchia punta a chiudere un accordo prima di cena. Aiutare i migranti è una questione di valori. La Turchia continuerà in questa prospettiva umanitaria, ha detto ancora il premier turco. Abbiamo gli stessi obiettivi dell'Europa. Turchia, che in base alla bozza di accordo dovrebbe riprendersi i migranti sbarcati in Grecia secondo la regola per cui per ogni siriano rimpatriato dall'isola greca un altro verrebbe reinsediato nell'Unione. Come contropartita, Ankara aveva chiesto 3 miliardi di euro in più rispetto a quelli promessi da Bruxelles, liberalizzazione dei visti, accelerazione del negoziato per la sua adesione. Bisognerà vedere cosa concederà l'Europa. Ci sono le riserve di Cipro sull'avvicinamento alla Turchia, la questione del rispetto dei diritti umani, le riserve dei paesi balcanici all'accoglienza di nuovi profughi. Questi invece punti imprescindibili secondo il premier italiano Renzi. Se vogliamo davvero dare una mano per ridurre la immigrazione selvaggia, l'unica cosa è fare investimenti e interventi nei paesi d'origine. E questo cosa significa? Finalmente una politica strategica dell'Europa sulla cooperazione internazionale in Africa, una politica di rimpatri pagati e coordinati dall'Europa e non dai singoli paesi, tutto quello che da anni diciamo essere una priorità. Si è detto, a parole siamo d'accordo, adesso vediamo se dalle parole alle parole seguiranno i fatti. Trattative che dunque vanno avanti. Alle 15 convocata la riunione con tutti i 28 paesi per il negoziato allargato. E per ora è tutto. E grazie ad Alessandra Schepisi. E della responsabilità dell'Europa nella questione migranti ha parlato questa mattina Sergio Mattarella in Camerun. Erigere muri e barriere non rappresenta una soluzione, ha detto il Presidente della Repubblica, che ha anche parlato di terrorismo. L'estremismo violento che attacca la vita umana non può avere diritto di cittadinanza in Africa come in Europa, ha detto il Presidente della Repubblica. Le responsabilità della comunità internazionale e di numerosi paesi, anche europei, nel non aver saputo affrontare le ragioni delle crisi, se non addirittura nell'aver concorso a creare in passato condizioni di instabilità, sono ampie. Vanno lasciate alle spalle politiche errate che hanno permesso al terrorismo di alimentarsi di pericolosi antivalori permeati da irrazionali pulsioni violente. Cambiamo argomento. Sbloccare l'impasse sulla proposta di etichettatura obbligatoria dei prodotti importati nell'Unione Europea, il Made in, come si usa chiamarlo. Questo è l'obiettivo con cui 11 ministri di altrettanti Stati membri hanno inviato una lettera alla Commissione Europea al presidente di turno olandese. Nella lettera gli 11 hanno riproposto una discussione fra favorevoli e contrari basata su una possibile intesa che introduca l'etichettatura obbligatoria in 4 settori manifatturieri: ceramica, tessile, calzature e arredamento, e per un periodo limitato a 3 anni. Il progetto South Stream, così com'è, non esiste, è chiuso, lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, commentando le parole dell'ambasciatore europeo in Russia, Ushakash, secondo cui l'Unione Europea è disposta a studiare eventuali proposte per rilanciare i lavori. Per di più, ha precisato Peskov, il progetto è stato fermato a causa della posizione della Commissione Europea. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.